Radio Monte Carlo, la radio italienne de la Principauté de Monaco. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del Neolitico. Nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari, il gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentale. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi umanità virtuale, sex appeal, comunque vada Pantarei. Vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste! Namasteole, grande musica con Gabbani su Radio Monte Carlo. Buonasera, sono Di Maggio. Se ci state ascoltando significa che non state guardando la TV, oppure siete ancora in viaggio verso casa, o che magari avete deciso per un buon libro, è un venerdì sera, un pezzetto di cioccolato nero fondente, perché la cioccolata fa bene con i suoi flavonoidi, è un antiossidante, poi regala endorfine, vero ragazze? Basta non esagerare con il cioccolato. E purtroppo leggevo che mangiare del buon cioccolato potrebbe diventare un lusso. Ne parliamo stasera con Andrea Bergamasco in regia, Serena Mazzone al coordinamento editoriale Black Eyed Peas. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living. In the USA, the big CIA. The Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurt, and you hear them crying. You practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, Father, that don't belong. Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. I don't know. Where's the truth, y'all? Come on. I don't know. Where's the love, y'all? We're forgetting, people dying, children hurting and crying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love, the love. I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. We're forgetting, people dying, children hurting and crying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. People say the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would have said you're beautiful, but I used that line before. And I have my share of shallow nights, cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you. You love, love, love me, love me better. You love, love, love me, love me better. There's been times I gave myself to someone else. You, I was treading water. And baby, I know you know I got an eye that wanders. But right now in this car that we're driving to your sister's, all I'm looking for is something that's forever. Baby, then you. You love, love, love me. There've been people that I've loved before, but they were something lesser, cause you love, love, love me. Say the meanest things. Yeah, Yeah, but truth be told, I don't care what they think. I got someone who is lying in my bed right next to me. Yeah, she love, love, loves me. Love, love, loves me. Gave myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me better. My nights are broken up by the sounds of women I'll never meet. My eyes are closed, I can start to feel you staring at me. The right side of my bed has always left me feeling stuck in between. Everything I know and all the lies I tell myself so I can sleep. Pieces you left, and don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it. Let me worry about it. You came around to say that you'd been away, like I hadn't known. If I don't wake up every single day not seeing you go, as if this moon of ours only shines a half to make me feel whole, as if I haven't felt your breath in every step I take when the wind blows. The pieces you left, don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it. Let me worry about it. Pick apart the pieces you. Jack Garrant su Radio Monte Carlo, dove stasera parliamo di cioccolato. Bell'argomento, eh? In Europa sono gli svizzeri e i tedeschi a mangiare di più, sui 12 kg all'anno, ma dipende dalla qualità del cioccolato. Più c'è cacao e meglio è. Però sembra che i prezzi del cacao salgano. In 3 anni il cacao è aumentato del 50% per effetto della speculazione sulle materie prime. E anche perché dicono che non ce ne sarà abbastanza, che la richiesta negli ultimi anni è aumentata del 7%, soprattutto dai paesi emergenti. Beh, sono le voci che fanno il mercato, mi dice il mio amico che si occupa di finanza. Piuttosto bisogna vigilare sulla qualità del prodotto, perché a volte mangiamo della roba chiamata cioccolato, ma dove il cacao è al massimo il 15%. È un vero surrogato. E poi il cioccolato è soprattutto un bel viaggio nella storia. Innanzitutto, sapete che sono i Maya in Messico ad aver usato il cioccolato per primi come bevanda degli dei che dava forza e coraggio ai guerrieri. Poi, dopo Cristoforo Colombo, la cioccolata arriva nelle corti europee, la bevono, però la trovano amara e anche un po' acida, e allora aggiungono zucchero e diventa una bevanda alla moda tra i regnanti e l'aristocrazia. Poi uno svizzero, mica tanto tempo fa, trova il modo di far diventare solida la cioccolata e voilà, eccoci alle tavolette che conosciamo oggi. Tra poco vi racconto da dove viene esattamente il cioccolato che state mangiando in questo momento, perché io ho messo voglia, vero? Radio Monte Carlo. Grande musica. Yeah, yeah, yeah. What if God was one of us?

got it. So gonna get to clapping. Clap. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it drop for it. A plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Nope. Lobster tail for dinner. Coolio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. For you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mama. A promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never be. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. I like, lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby, here I am, baby. What a like. Questo era Bruno Mars, la nuova canzone, e su Radio Monte Carlo stiamo parlando di That's What I Like, il cioccolato che si fa dal cacao. Allora, quello del cacao è un alberello smilzo alto 3-4 metri che fa dei frutti grossi, cabos, come un pallone ovale da football americano, ce l'avete presente? E dentro c'è una sostanza bianca molliccia e in mezzo ci sono i semi veri. È vero, e dentro queste fave che sono grandi così, ma voi non lo vedete il gesto che lo faccio al microfono. Dentro queste fave c'è la polvere di cacao che poi viene estratta e lavorata. Il cacao è sudamericano, ma i tempi del colonialismo hanno creato delle piantagioni di cacao anche in Asia, nelle Filippine, in Indonesia soprattutto, e in Africa. L'Africa è diventato il più grande produttore di cacao, soprattutto la Costa d'Avorio, che fornisce il 40% del cacao del mondo. Poi il Ghana, la Nigeria, il Camerun. Ma il cacao migliore, mi dicono gli esperti, è quello del Venezuela e anche quello del Brasile e dell'Ecuador, che sono paesi produttori. Diciamo comunque che il prezzo del cacao fluttua in base alle speculazioni. Nel 2010, per esempio, un solo finanziere che chiamano Chocolate Finger, come Goldfinger, ecco, lui era riuscito a far raddoppiare il prezzo del cacao e ad alzarlo a $2,700 alla tonnellata, ma poi è sceso. Il problema per i prezzi è che 4 nazioni al mondo assicurano il 75% del fabbisogno mondiale di cacao. Metti che ci sia un colpo di stato in Costa d'Avorio, oppure un'epidemia un'epidemia in Ghana o in Nigeria, come è stato Ebola, ecco, e i mercati si mettono in subbuglio e si dice che il cioccolato diventerà carissimo. Tranquilli che per esempio per il 2015 e anche il 16 c'è stata parità tra offerta e domanda, e non è interesse di nessuno, soprattutto di chi il cioccolato lo fabbrica, che il prezzo aumenti a dismisura, perché poi il pubblico non lo può più comprare. Godetevi la vostra tavoletta di nero fondente, ma non tutta però, solo qualche quadratino. RMC Trilogy. Dedicated to Dire Straits. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. RMC Trilogy. Carousels in the carnival arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made. To walk away, walk away, walk away, walk away from color coats and Whitley Bay. Had to walk away. RMC Trilogy. Tre canzoni per i Dire Straits. Fun. so far away from me. It's so far away from me. So far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away from me. Ditemelo, siete in macchina, tutti amici che amano i Dire Straits, state muovendo la testa al ritmo con le canzoni di questa trilogy. Questo è Radio Monte Carlo in un bel venerdì sera per tutti, questa è Other People da LP. To zero. Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. This 5'7" guy who's just my type. I like the way his big hair, his confidence is big, and don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath them. And no, I've been to MIA. I hear that Cali never rains and New York's wide awake. But first let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy. Shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I like to see what's good. Dress in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving those short toes. Walk in that walk. Talk that sleek talk. I'm liking this American boy. American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You be my American boy. Sempre grande musica su Radio Monte Carlo. Adesso ci lasciamo le ultime news della serata con meteo e le previsioni del tempo per domani. Welcome to Radio Monte Carlo. Solo musica di gran classe. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Carlo con Spending My Time, Roxette, che appartenevano alla seconda ondata musicale dalla Svezia. I primi sono stati gli ABBA, che sono stati grandissimi. E poi di recente c'era questo movimento interessante di DJ Swedish House Mafia, un'ondata di DJ producer con Axwell, prima di tutto Angello, Avicii, che sicuramente conoscete. Ora Power of Stellar. Oh,

vita. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutti i torti e le con il fuoco e qualcuna l'ho anche vinta, ma ci è mancato poco, mi giocassi anche la vita. Ho lasciato troppe volte la mia impronta sopra un letto senza preoccuparmi troppo di cosa prima avevo detto. Ho guardato nell'abisso di un mattino senza alba, senza avere un punto fisso o qualcuno che ti salva. Diario degli errori. Se lavorate nel mondo della tecnologia, occhio che la Nuova Zelanda vi sta cercando. In particolare la città di Wellington, che si è autoproclamata capitale della tecnologia e dell'innovazione del Sud Pacifico. Loro hanno messo in piedi una sorta di programma turistico, però non solo turistico, un programma chiamato Look See Wellington, che ha messo in palio per 100 persone dei voli gratuiti e degli alloggi per una settimana in città. Si può fare i turisti, però prima bisogna fare un colloquio di lavoro in una delle compagnie tech della zona prima di poter partire, altrimenti non ti lascia, ti tengono lì, non puoi ripartire e ritornare da dove sei partito. Allora, Wellington è sede di aziende digital che hanno realizzato, per esempio, negli effetti visivi sono stati fortissimi, perché sono loro che si sono occupati di Avatar e del Signore degli Anelli. D'altronde il Signore degli Anelli l'hanno fatto lì in Nuova Zelanda per avere quei paesaggi, quelle vallate verdissime e tutto il resto. I mostri non li hanno, questo per assicurarmi. I mostri erano stati costruiti comunque da quelli che hanno fatto gli effetti digital. Le aziende sono sempre alla ricerca di sviluppatori in Nuova Zelanda, anche produttori digitali, direttori creativivi, di quelli hanno bisogno. Alla fine della settimana di soggiorno lì in Nuova Zelanda si otterrà un'offerta di lavoro da una delle aziende che avrete incontrato, e a voi decidere se è interessante o meno. È un modo veramente non convenzionale di cercare di attirare i migliori talenti, ma guardate che Wellington è una città molto piacevole. Io non ci sono mai stato, però un'occhiata in Nuova Zelanda è tra i miei programmi. Islanda, Nuova Zelanda, da vedere. Se siete interessati basta creare un profilo sul sito LookSee, poi i datori di lavoro di Wellington potranno scegliere i propri candidati, e quelli con il più alto numero di nomination, ovviamente quelli le varie aziende selezionano di più, saranno invitati per passare questa settimana a scoprire la Nuova Zelanda total free. Radio Monte Carlo. Great music. You looked inside my fantasies and made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. If you should go away, I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again. L'ho vista dal vivo quando ancora a Bordighera si faceva un fantastico festival del blues. Dion Warwick è veramente un mito, assolutamente. Poi in prima fila anche, me la ricordo bene. E ora su Radio Monte Carlo c'è Telepathy, Christina Aguilera con Nile Rodgers. Telepathy. I got you, and you got me. I know you, and you know me. We got telepathy. Yeah, I got you, and

Era davvero una canzone molto bella e ogni tanto mi chiedete: ma chi è che la fa? Jacob Bellens, molto giovane. Si titola Untouchable su Radio Monte Carlo. Andiamo in Giappone. Il Giappone è famoso per il forte senso del dovere, la profonda dedizione al lavoro. La gente lavora, passa molte ore in ufficio con dei ritmi frenetici, tenta sempre di rendere al massimo e certe volte si finisce per alienarsi così. Tanto che di recente, mi ricordo, l'ho letto e ve l'ho detto, il presidente di una corporation giapponese ai suoi 100.000 dipendenti ha raccomandato di tagliare gli orari, di non restare in ufficio dopo le 20, siate efficienti e meno occupati, ha detto. Beh, è venerdì, spero che siate a casa e ci stiate ascoltando. Il Giappone ha veramente questo culto del lavoro e si possono vedere veramente impiegati e studenti addormentati nei luoghi più improbabili, in metro, al ristorante, all'ufficio, perché si tratta del cosiddetto inemuri, cioè un sonnellino in pubblico che è socialmente accettato. Sembra strano solo a noi occidentali, però c'è stato un fotografo, Kawamoto si chiama, che è andato in giro per Tokyo a fotografare invece delle persone addormentate e abbandonate a terra perché sfinite dal troppo lavoro, spesso anche dall'alcol, con cui cercano di dimenticare la stanchezza e la fatica della vita quotidiana. Gli impiegati giapponesi, pensate, fanno delle vite veramente d'inferno, fra ore di tragitti in treno col pendolarismo, lavoro fino a tardi e poi usciti bevono tantissimo alcol, birra soprattutto, e questo è l'unico momento della giornata in cui riescono a rilassarsi, però collassano fra stanchezza e alcol. Esiste un termine per indicare questa abitudine a bere troppo alla fine della settimana, siamo in venerdì. Ecco, chissà a Tokyo, e si dice Nomisugi. Si finisce collassati sul pavimento di centri commerciali, stazioni, a lavorare troppo. E fino al 12 marzo la web radio RMC Great Artists è dedicata alla festa della donna ed è tutta al femminile. Ascoltate RMC Great Artists anche sulla nostra app. Vi emozionerete con le più grandi voci femminili di sempre. Radio solo musica di gran classe. Nothing good to wrong. Invisible Touch dei Genesis su Radio Monte Carlo, dove scegliamo sempre grande musica. E da Sanremo arriva quello che secondo me è l'unico disco che ha qualche probabilità, poi gusto personale, io come tale scout sono proprio negato, che ha qualche possibilità di arrivare all'estate, forse anche oltre, perché c'è il contenuto. Questo è Samuel, vedrai. Siamo ancora qui, vuol dire che un motivo c'è. Lascia qualcosa tra le braccia e non questa distanza che mi sputa in faccia. Se siamo ancora qui ad imparare come illuderci, a preoccuparci della verità, vedrai che poi il tempo non ci tradirà. Sotto un vento di libeccio che dall'Africa soffia lieve su di noi la sua sabbia. Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fan tremare, e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri si riaccenderanno, ricostruiremo il luogo cui poi vivranno, perché noi siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione. Se siamo ancora qui ad ignorare le difficoltà, impareremo anche a comprendere che esiste un buon motivo per insistere. Sotto un vento di libeccio che dall'Africa soffia lieve su di noi la sua sabbia. Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fanno tremare, e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri si riaccenderanno, ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno, perché noi siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione. Dovremmo solo Radio Monte Carlo, musica di grand classe. She work it, girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, too ready to pop. She's always ready when you want it, she want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight, the club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's of the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. I need you right in front. would be your me. Backstroke and sweat soaking all into my set sheets. When you ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit should be against the law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get it together, maybe we can start a new phase. The smoke's of the global hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Ooh. She won't sit. Ooh. She won't sit. She won't sit. I gotta give it to her. She won't sit, she won't sit, she won't sit. I gotta give it to her. First, 'cause I ignored Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold, she's got Bette Davis eyes. To turn her music on, you won't have to think twice. She's pure as New York snow. She's got Bette Davis eyes, and she tease you, she unease you. All the better just to please you. She's precautious, and she knows just what it takes to make a prom blush. She got Greta Garbo. To take her home, it wears her appetite. She'll lay you on her throne. She got Bette Davis eyes. She'll take her tumble on you. Roll you like to a dice until you come out blue. She's got Bette Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Off your feet with a crumb, she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make a prom blush. All the boys think she's a spy. She's got Bette Davis eyes. And she teases you. She knows just what it takes to make a prom blush. All the boys think she's a spy. She's got Bette Davis eyes. Sempre grande musica su Radio Monte Carlo, ma aspettatevi un cambio radicale di sound, perché il venerdì sera parte dalle 22 Melanie e Stella con una grande selezione di house music in RMC VIP Lounge, e sentirete che grande suono per accompagnare il vostro venerdì. Noi ci risentiamo domenica a partire dalle 19. Sono Maurizio Di Maggio, c'era Andrea Bergamasco in regia. Buona serata a tutti voi.